Buongiorno, siamo all'ottava edizione del Festival della Partecipazione. Esattamente, ottava edizione. Quali sono le tematiche appunto di questa ottava edizione? Allora, prima di tutto, l'ottava edizione del Festival della Partecipazione vuole rilanciare la possibilità di rendere generative le idee delle associazioni, degli enti del terzo settore, ma soprattutto dei giovani. La questione principale è ridare protagonismo ai giovani e fare in modo che possano loro stessi, rivendicando loro stessi i loro bisogni, i loro diritti, far parte in modo preciso e puntuale di quelle che sono le dinamiche sociali e politiche del nostro paese. Come ActionAid, qual è l'obiettivo di queste giornate? Il nostro obiettivo è evidenziare ancora una volta due elementi fondamentali per la nostra organizzazione: la trasparenza, tout court, la trasparenza dei dati, la trasparenza dei fondi, la trasparenza delle informazioni date però a chi? Ai cittadini e alle cittadine, o meglio ancora a tutte le persone, a prescindere dalla collocazione che si può avere da un punto di vista giuridico e legale, affinché possano partecipare e possano rivendicare quello che appunto è il loro ruolo, il loro diritto all'interno di una società democratica quale quella dell'Italia. Infatti, insomma, lo slogan di quest'anno è proprio presente e partecipazione. Ecco, queste sono ovviamente le due parole chiave. Esatto, siamo qua, siamo tutti e tutte qua, vogliamo rivendicare appunto quelle che sono le nostre idee, bisogni e le nostre opportunità di risposte e lo vogliamo fare partecipando, coprogettando e co-costruendo insieme il nostro futuro. Una domanda che è sempre un po' difficile, ma se dovesse scegliere un evento di questo festival a cui non mancare assolutamente, so che insomma sono tutti importanti, ma uno preferito? È un domandone, Sì. veramente un domandone, però mi verrebbe di dire, visto che abbiamo tanto sottolineato l'importanza dei giovani, gli eventi dedicati agli attivisti, quindi Occupy Democracy, e quindi un po' più di uno, però quelli dove gli attivisti Certo. giovani hanno la loro voce, andiamoli ad ascoltare. Grazie mille. Grazie.